Sai che fa Venezia? Perché qui c'è da prendere in considerazione un fatto. Bisogna considerare che quelli che vanno a Venezia adesso andranno nella Venezia ante Brunetta. Non si sa bene cosa sarà la Venezia post Brunetta. Io do per scontato che Brunetta trionfi a Venezia a marzo, cioè, nel Lei senso. lo dà per Sì, io scontato? sì, io sì, io sì. Ma non Qui perché ci sono tifoso di sono. Brunetta, ma perché credo che, insomma, poi anche la iperpresenza media. No, Lo decideranno i veneziani. sto Quello che scherzando. si può dire è che la città è coperta di gigantografie di Brunetta, Già sai, coperta, credo. già coperta di Sì, giga. assolutamente. I democratici veneziani sono costretti solo a fare qualche commento per iscritto su queste Cioè i gigantografie. pidini, no i democratici, perché Brunetta è No, democratico. Ma come, Brunetta ora non è molto democratico, esageriamo. Flores, No, su. non esageri. Brunetta democratico Ma come mi non sembra esagero? veramente un'esagerazione e Ma come? quasi una battuta Ah no, carnevalesca. non mi faccia querelare Comunque, da Brunetta, abbiamo. però No, ma Brunetta perché? che non è democratico, adesso Beh, ma francamente. questo va da sé, Ma francamente. come va da sé? Comunque, Brunetta non è democratico. ma nessuno dello schieramento del regime berlusconiano e Ah, democratico, perché se no siccome sarebbe c'è il un regime regime. berlusconiano, È ovvio. tutti quelli non sono Che lo democratici. appoggiano sono fuori dalla Dalla Costituzione, democrazia dalla democrazia. liberale, Ah, hanno certo. un'altra idea della Ah, vabbè, democrazia, aspetta, insomma. che siano fuori dalla democrazia liberale è un discorso. Lei dice non è democratico, cioè è Beh, lui, antidemocratico. è certo.